Numerosi sono gli insegnamenti del profeta riguardo alle educazioni. Egli, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: è diritto di un figlio ricevere dal genitore un buon nome e una buona educazione. Occuparsi di dare al proprio figlio una buona educazione è più meritorio per il genitore del dare ogni giorno un'elemosina ai poveri. Un genitore non può lasciare in eredità a un figlio nulla di meglio di una buona educazione. Quando i vostri figli hanno raggiunto l'età di 7 anni, ordinate loro di eseguire la preghiera, e quando hanno raggiunto i 10, costringeteli a farla. Un giorno un beduino rimproverò il profeta perché era affettuoso con i bambini. Il profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: che potrò mai fare per te se Allah ti ha tolto dal cuore la tenerezza? I genitori hanno un limitato potere di usare le mani per correggere dei comportamenti sbagliati, mentre questi sono in atto. Dopo che nulla siano serviti, il consiglio e l'ammonimento diretti a far desistere da un modo di agire inammissibile. La correzione e la punizione corporale sono un mezzo semplice, rapido ed efficace quando siano eseguite secondo l'insegnamento del profeta sallallahu alaihi wasallam, il quale disse: se siete costretti ad arrivare alla punizione corporale, non colpite sul viso né con violenza tale da lasciare tracce. Perché la punizione abbia l'effetto desiderato, essa deve servire a far comprendere che essa esprime il nostro sentimento di responsabilità morale e di amore per chi sbaglia e continua a sbagliare, nonostante i richiami e i rimproveri. Non ci deve essere nulla nelle modalità con cui la punizione corporale viene inflitta che possa far credere a chi la subisce di essere vittima di un'ingiustizia. Non ci deve essere nessuna ombra di disprezzo se si vuole che la punizione sia efficace, affinché essa venga percepita non già come una manifestazione di odio personale, ma come un atto educativo. È per questo motivo che non bisogna picchiare in faccia, perché il farlo costituisce in re ipsa una profonda umiliazione. Non bisogna mai dimenticare che i bambini sono molto sensibili e riescono a capire l'animus che sta alla base dell'azione punitiva, percependo se l'atto esprime un'esigenza educativa o è solamente un modo come un altro per dare sfogo a una tensione nevrotica di altre origini. Non sarà mai abbastanza sottolineato che per essere educativamente utile la punizione deve essere inflitta subito, potremmo dire in flagranza, e non dopo che il comportamento reprensibile si sia compiuto dal tempo. E ciò perché il bambino rapidamente dimentica e mal comprenderebbe di essere punito alla sera per una trasgressione commessa la mattina. Allah, subhanahu wa ta'ala, è indulgente e ama l'indulgenza. È necessario quindi che anche i genitori siano indulgenti, perché i figli si rendano conto che essi li amano nonostante i loro sbagli. Bisogna quindi che il genitore sappia perdonare l'errore del bambino e non punirlo, ma dopo averlo fatto ragionare sull'errore commesso, affinché egli, dopo averci ragionato sopra, non ci ricada. L'indulgenza comunque non deve essere un segno di debolezza. Quando la punizione è meritata e ci vuole, essa deve essere inflitta solo ed esclusivamente quando il genitore sia ben certo che non sia sfogo a nervosismo o a una violenza repressa. Benché prevista come estremo mezzo di correzione di comportamenti sbagliati e di azioni malvagie, la punizione corporale è un fatto assolutamente raro nell'Islam, poiché l'educazione dei figli, come si è visto, è uno dei momenti chiave della vita del genitore musulmano. E se Come detto prima riguardo ai doveri educativi del genitore, il profeta sentenziò che il miglior lascito che un padre possa fare al figlio è una buona educazione, è doveroso concludere, per sottolineare l'importanza dell'educazione materna e della madre nell'educazione islamica del bambino, con quel detto del profeta, il quale, sallallahu alaihi wasallam, affermò: in verità le porte del paradiso sono sotto i piedi delle mamme.